non se ne parla per niente. È impressionante come si dedichino pagine e pagine, si diano premi a Navalny e non si parli di Assange, che l'unico crimine che ha commesso è stato quello di dire la verità sulle guerre che sono state combattute in Afghanistan e in Iraq, sui massacri di civili, sulle torture che sono state compiute. Rischia negli Stati Uniti, se sarà estradato, fino a 175 anni di carcere. Penso che sia giusto, per chi accetta i principi di democrazia e di libera informazione, manifestare in sua difesa. Di qualche giorno fa questa sentenza appunto della Corte londinese che ha ribaltato proprio la decisione sull'estradizione, quindi l'estradizione potrebbe essere una cosa concreta. Sì, la sentenza è molto grave, perché gli Stati Uniti hanno sostenuto, ma senza portare elementi tangibili, che in realtà Assange rischia massimo 5-6 anni di carcere e non sarà detenuto in un carcere di massima sicurezza, ma in realtà non ci sono garanzie che questo avvenga. Quindi nei fatti stiamo parlando di quella che rischia di essere una condanna a morte per Assange. Una domanda più generale sul fatto appunto delle mobilitazioni che si fanno qui in Occidente. Tu prima dicevi, appunto, hai citato Navalny, si è parlato molto anche di Patrick Zaki, perché a detenerlo era un regime come quello egiziano. Quando a detenere le persone è l'Occidente, ci sono pesi diversi? Esatto, molto diversi. Io personalmente sono contento della liberazione di Zaki, sarò ancora più contento se verrà definitivamente prosciolto da tutte le accuse. Mi indigna però che non si spenda da parte di nessuno lo stesso sostegno per Assange, anzi devo dire con grande dispiacere che leggo alcuni personaggi di sinistra o sedicenti tale, come Michele Serra, solo per fare un esempio, che addirittura prendono le distanze da Assange. Ecco, se la sinistra italiana, la sinistra libera è ridotta a questo, veramente ci sono dei problemi. Secondo te perché dà fastidio Assange? Ma perché l'Italia non ha una vera indipendenza, non ha una vera sovranità. Noi dipendiamo dagli Stati Uniti d'America, che ci costringono a fare guerre in giro per il mondo, facendo uccidere sia i nostri soldati che i civili, milioni di civili iracheni ed afghani, e lo facciamo perché ce lo chiedono gli Stati Uniti, anche contro i nostri interessi, non solo della popolazione locale. Chi denuncia tutto questo, come Assange, è ovviamente nemico degli Stati Uniti e di converso nemico anche del governo italiano, qualsiasi esso sia, centrodestra, centrosinistra. Ti chiedo di ricordare il presidio di questo pomeriggio, come si svolgerà? Sì, il presidio inizierà alle 18 davanti al Teatro Testoni, per intenderci, andrà avanti fino alle 20, ci saranno alcuni interventi, sia mio come direttore del sito internet Marx 21, saranno presenti Rete dei Comunisti, Comitato Ucraina Antifascista, molte altre sigle, tutti interverranno e porteranno il loro contributo.